Torretta ai forti, dai tempi in cui andava male. Adesso è forte, ci porti a passeggiare il cane. La guerra è un ricordo di gente ormai sepolta. E anche se l'ho già detto, lo dico un'altra volta. Non sono il solo ad avere questa passione. Faccio rap, il mondo è la mia fonte di dannazione. E se mi svegliassi è tutta un'allucinazione. Oppure dormo, sono in coma. Rianimazione. Distanti come il sole, so che lei mi vuole. Apro le mani, le unisco. Ci faccio un cuore a chi vorrebbe farmi scopare come un mulo. Apro il dito centrale e li mando a fanculo. Ma ultimamente il mio dolore svanisce da quando c'è gente che i miei testi li capisce. E presto i tempi in cui ero solo saranno un ricordo. E già mi sento ricco anche se non ho visto un soldo. All'oscurità, nessun si alza, poi ricadrà. Non ci sta niente a parte il rap che possa darmi dignità. Che poi basterebbe poco per chiudere la partita. Ma sono troppo masochista per farla finita. Noi lo chiamiamo vivere, in realtà stiamo morendo. E l'unica scelta data c'è quella di farla al meglio. Ma forse è vero che vedo il bicchiere mezzo vuoto. E ci sto dentro da una vita e me la faccio a nuoto. Una di quelle sere in cui rimetto insieme i cocci. Ti ho detto che è il momento, baby, chiamami entro oggi. Sei la realizzazione di ogni sogno teorizzato. Sei molto di più che un letto sudato. Ora ascoltami, ti parlerò un po' di me. Devi sapere che sono un uomo pieno di cliché. Mademoiselle, porto sempre una Bibbia nel taschino. In caso un mio nemico mi spari dal finestrino. Notte di paura, l'auto che non parte. Serata presa bene ma già sento le ambulanze. Sono il protagonista che non muore, figli di puttana. Ma se cammino a testa alta scivolo, buccia di banana. Buccia di banana. Dalla luce all'oscurità, nessun si alza, poi ricadrà. Non ci sta niente a parte il rap che possa darmi dignità. Che poi basterebbe poco per chiudere la partita. Ma sono troppo masochista per farla finita. We'll be right back.